Hadith numero 20 da Abu Mas'ud Uqba bin Amr al-Ansari, che Allah si compiaccia di lui, disse: l'apostolo di Allah, che Allah lo benedica e la abbia in gloria, ha detto: in verità, da ciò che gli uomini hanno imparato dagli insegnamenti della missione profetica nel passato, c'è: se non ti vergogni, da te ci si può aspettare di tutto. L'ha riferito l'imam al-Bukhari.